Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. L'emergenza era scattata alcuni giorni fa, poi ieri sembrava rientrata. Invece oggi la Gazzetta Ufficiale conferma un colpo durissimo alle rinnovabili. Buonasera da Maurizio Meris, benvenuti a Mr. Kilowatt. Stasera, per chi ha sentito la pillola del mattino, avremmo dovuto parlare del procedimento autorizzativo per la realizzazione di impianti eolici, ma la cronaca ha avuto il sopravvento. In finanziaria, infatti, è presente una norma che cancella il ritiro dei certificati verdi da parte del GSE. È una norma che è stata approvata e con il rischio di gravi ripercussioni su tutto il mercato delle rinnovabili. La questione è un po' tecnica, cerchiamo quindi prima di metterla a fuoco e poi di valutare quali potrebbero essere le conseguenze per il mercato, appunto, delle rinnovabili. Ne parliamo con Tommaso Barbetti, responsabile del settore mercato e incentivi FER, fonti energetiche rinnovabili, di APER, l'associazione dei produttori di energia rinnovabile. Buonasera Barbetti. Buonasera a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, la circostanza non è delle più allegre, ma le chiedo che cosa sono e come vengono riconosciuti intanto i certificati verdi. Cerchiamo di, insomma, dare le coordinate. Allora, i certificati verdi sono dei titoli che attestano l'avvenuta produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti qualificati IAF, ossia impianti alimentati da fonti rinnovabili, una qualifica che il GSE attribuisce agli impianti che producono energia da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile del 1999. Il GSE, un termine che sentiremo spesso, vuol dire gestore dei servizi gestore elettrici. Gestore dei servizi energetici, perché energetici. Ha appena allargato la sua definizione. Bene, quindi questi certificati verdi vengono riconosciuti a chi produce energia da fonti rinnovabili ed è un modo per pagarlo. Esatto, va detto che un certificato verde di per sé non ha un valore intrinseco, è un pezzo di carta, o per meglio dire un certificato elettronico. Acquisisce valore leggendolo nell'ottica dell'analisi del decreto Bersani del 1999, che obbliga i produttori di energia convenzionale, gli importatori di energia convenzionale, a immettere in rete una quantità determinata, che adesso perché il 2010 è pari al 5,3%, sì, di energia da fonti rinnovabili. Perfetto. Rispetto al totale delle loro produzioni. E chiaramente in questo senso o lo fanno direttamente o acquisiscono dei titoli da altri soggetti. Che producono l'energia in quel modo lì. Esatto. Perfetto. E questi titoli sono per l'appunto i certificati verdi, e così acquisiscono valore anche sul mercato e non rimangono un pezzo di carta. Quindi abbiamo un'offerta, ci sono i produttori di energie rinnovabili, abbiamo una domanda, ci sono i grandi produttori di energie che devono comprare questi certificati verdi. Esattamente. La contrattazione avviene in una borsa. Avviene in una borsa, in una vera e propria borsa in cui domanda e offerta si confrontano secondo le classiche logiche competitive del mercato. Ecco, però c'era un meccanismo in qualche modo per ammorbidire un po' le logiche di mercato. Esattamente. Quando è partito il meccanismo nel 2003, sì, cioè quando è diventato operativo, l'offerta, cioè la disponibilità di certificati verdi, era nettamente minore rispetto alla domanda. Pertanto, in un mercato, quando l'offerta è un terzo della domanda, il prezzo schizza all'infinito, alle questo stelle. Non potevamo permettercelo naturalmente. Pertanto è intervenuta una norma che ha previsto la possibilità per il GSE di emettere certificati verdi in proprio favore da destinare appunto alla domanda che non riuscisse a rifornire certificati verdi sul, certo, mercato. Il risultato era mettere un tetto massimo al costo dei certificati verdi per evitare speculazioni, mettiamola così. Esattamente. Poi a un certo punto è passato il tempo, arriviamo al 2008, che cosa succede? Che si sono sviluppate a tal punto le fonti rinnovabili da sovvertire la situazione, da passare da un eccesso di domanda a un eccesso di offerta, ossia troppi certificati verdi rispetto a quelli di cui c'è bisogno. D'accordo. Secondo la costruzione della domanda. E anche non qui a questo assoluto, punto, ovviamente, certo, scatta un meccanismo al contrario, diciamo, che serve a tutelare invece i produttori di energie rinnovabili. Esatto, esatto. Offerta doppia domanda, in un mercato il prezzo va a zero. Questo non va bene, naturalmente. Interviene una norma che prevede la possibilità per il GSE di ritirare in via transitoria fino al 2011 tutti i certificati verdi non venduti sul mercato, quindi annullando di fatto questo eccesso di offerta, dando una remunerazione minima e sicura minima a chi non avesse venduto i certificati verdi e quindi di fatto evitando il crollo dei prezzi sul mercato. La cifra a cui venivano ritirati i certificati verdi era 85 euro? Era, per quest'anno era di 88,91 euro a megawattora. Che cosa è successo con questa finanziaria? Con questa finanziaria è successo che questa possibilità che veniva concessa al GSE di ritirare i certificati verdi non venduti sul mercato è stata eliminata con effetto immediato. Pertanto ad oggi, con una situazione che ricordiamo è di eccesso di offerta, ci sarà un crollo del mercato. Esatto. Questo vuol dire che i certificati verdi potrebbero valere la metà dopo domani. È difficile fare stime perché è una misura che è stata appena approvata, però diciamo che non sono troppo diverse da quelle che ha appena ipotizzato lei. E quindi questo è un problema perché non solo cambiano tutti i business plan, insomma, chi voleva costruire un impianto a questo punto ci penserà, ma ci sono anche molti impianti che vivevano di questi certificati verdi. Che cosa succede a questo punto? Succede che tutta la pianificazione finanziaria che era stata fatta a suo tempo non è più valida, tutti i piani di ammortamento stipulati con le banche diventano difficili da rispettare, e che pertanto con una voce di ricavo che pesa tantissimo sul totale dei ricavi, che di fatto perde metà del suo valore se non di più, si rischia in blocco la chiusura del settore senza ombra di dubbio, partendo senza ombra di dubbio dagli impianti che sono più che presentano sensibili. I maggiori costi di gestione, marginali di produzione, certo. Quindi, come le biomasse che devono acquistare la materia prima, la devono acquistare, hanno costi maggiori, saranno i primi che dovranno chiudere se questa misura andrà definitivamente in porto. Grazie Barbetti. Buonasera. Una precisazione prima di lasciarci, il provvedimento non riguarda in alcun modo le rinnovabili che venivano retribuite con il conto energia o con la tariffa omnicomprensiva. L'appuntamento è per domani, parleremo delle detrazioni fiscali del 55% per l'efficienza negli edifici, un piccolo vademecum su come si fa ad avere accesso agli incentivi. Dell'eolico parleremo settimana prossima. Buona serata.